Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Big World, e benvenuti in questa nuova puntata dei Monologhi Esteriori. Io sono Elisa Elena Carollo, e il mio scopo in questo programma è farvi capire che il teatro, anche se sembra una cosa così distante dalla vostra vita, non lo è come pensate. Vi avevo già anticipato nella prima puntata di questa stagione che ho pensato di scegliere i temi di cui parlare in un modo un po' diverso. In questa seconda stagione cercherò di ricollegarmi ai vari avvenimenti che ci sono nel corso dell'anno, le celebrazioni, le festività e anche le varie giornate mondiali che celebrano qualche tema importante. Per questa puntata in particolare ho deciso di ricollegarmi al fatto che il 16 ottobre è stata la giornata mondiale per l'alimentazione. Ci sono tantissimi aspetti dell'alimentazione di cui si potrebbe parlare, a partire dal fatto che purtroppo ci sono molte persone che non hanno di che mangiare. Però ho cercato di prenderne un aspetto un pochino più vicino a noi, perché per fortuna in questo tempo e in questa parte del mondo non ci sono più tante persone che soffrono la fame. Ho pensato di parlare invece del rapporto che abbiamo con il cibo, perché se una volta la preoccupazione era procurarsi il cibo e in quantità possibilmente sufficiente per sfamare tutta la famiglia, al giorno d'oggi non abbiamo più questo problema, ci basta andare al supermercato. Però di contro abbiamo degli altri problemi perché dobbiamo riflettere su che cosa mangiare, su quanto mangiare e su come la nostra alimentazione fa sentire il nostro corpo. Avrete tutti sentito dire e magari anche pronunciato la fatidica frase «dovrei proprio mettermi a dieta». Non che mettersi a dieta sia sbagliato, soprattutto con l'aiuto di un professionista, però questa nostra frase è dettata soprattutto dal fatto che non vediamo il nostro corpo come vogliamo e quindi il cibo diventa un mezzo per modellarlo un po' come lo vorremmo. Anzi, privarci del cibo diventa un modo per dimagrire, perché il problema di solito è che abbiamo della ciccetta dove dovremmo avere dei muscoli. Per parlare di questo tema mi faccio aiutare da un monologo di Eve Ensler. Se avete seguito la prima stagione del mio programma l'avete già sentita nominare, perché avevamo parlato di un suo monologo tratto da I monologhi della vagina. E il tema in quel caso era accettare le parti del nostro corpo che non ci piacciono. In questo caso è più o meno lo stesso discorso, ma legato al cibo. Questa volta parliamo di un'altra opera della stessa autrice, Il corpo giusto. La domanda in questo caso non è più come fare per accettare il nostro corpo. Non viene accettato e basta, a prescindere, e il cibo diventa lo strumento per vederlo come lo vorremmo noi, più magro, senza quella pancetta che ci disgusta ogni volta che la vediamo. Non solo il nostro corpo diventa un nemico, ma il cibo è il nemico. Sentiamolo dalle parole scritte da Eve Ensler. Il mio corpo sarà mio quando sarò magra. Mangerò poco alla volta, a piccoli morsi. Sconfiggerò i gelati, mi purificherò con succhi vegetali. Considererò la cioccolata un veleno e la pasta una forma di autopunizione. Non mi sentirò mai più sazia. Tenderò alla sazietà, mi avvicinerò alla sazietà, ma non sarò mai sazia. Abbraccerò il mio vuoto, lo sospingerò attraverso zone sacre. Lasciatemi la mia fame, lasciatemi morire di fame, vi prego. Il pane è Satana. Smetto di mangiare pane, che è come smettere di mangiare. 4 giorni fa un'amica attrice, magrissima, mi dice: Eve, la tua pancia non ha nulla a che vedere con la dieta. Che cosa? È la vita che ci cambia, dice. quello di cui hai bisogno è del testosterone. Cerco di immaginare che cosa potrei diventare, priva di pane e piena di testosterone. Serial killer, mi viene in mente. Mi accorgo di digrignare i denti la notte. È la mia fame di pane. Al massimo mi avvicino a forme di pane secco, pretzel, pane azzimo o grissini. Sono solo un ricordo del pane, una versione liofilizzata, un simulacro del pane. Qualcosa di croccante, qualcosa che continua a scrocchiare, in particolare i pretzel, migliaia di pezzi che si rompono in bocca. Non danno forse abbastanza a cui pensare? E allora perché cazzo continuo a pensare al pane? In questo monologo il tema è espresso dal punto di vista femminile, perché l'autrice è una donna e questo scritto è autobiografico, però non credo che i maschi si sentano tanto distanti da queste preoccupazioni. Ok, è vero che per le donne ci sono tutti questi modelli a cui aderire, di un corpo magro, però sempre con le forme, però tonico. Per i maschi in realtà non va tanto meglio. C'è tutta questa pressione ad essere muscolosi, forti, e la pancetta non è molto apprezzata neanche nei loro fisici. Quindi credo che ci possiamo tutti immedesimare. Parlando per me e per la mia esperienza personale, io mi immedesimo tantissimo. Una volta, si parla di 3 anni fa circa, ero dimagrita ed ero contenta di vedere la pancia piatta, di vedere un numero più basso sulla bilancia. Peccato che fossi dimagrita per un periodo di stress in cui mangiavo pochissimo. Poi, per fortuna, a livello psicologico ho iniziato a stare meglio e quindi anche a mangiare normalmente come facevo prima. E sono ovviamente ingrassata. Tutti mi dicono che non mi devo preoccupare, che non ho la pancia che mi vedo. Ma io la vedo, non è più piatta come era prima. La vedo, ok? E ho cercato anche di mangiare meno. Ok, mangiare cose più sane, però non funziona, quindi devo mangiare meno. E ci ho provato, però dopo un po' mi sono resa conto che non funziona. Se mangio meno, ho meno energia e non riesco a fare tutto quello che dovrei fare. Se mangio meno, forse dimagrisco. Forse il mio corpo corrisponde un po' di più a quello che vorrei. Però il resto della mia vita non molto, perché passo il tempo a preoccuparmi della fame e del fatto che sono stanca e non ho energia per fare le cose, invece di fare effettivamente le cose che vorrei. Quindi mi sto rassegnando. Sto accettando il fatto che la forma del mio corpo è fatta così e che non sono una di quelle ragazze di costituzione magra. Per carità, non dico che le persone di costituzione magra che mangiano e non riescono ad ingrassare siano perfette e felici. Anzi, ho un'amica che fa parte di questa categoria e che vorrebbe ingrassare un po' e soprattutto mettere su un po' di tette. Quindi, alla fine, quasi nessuno è mai contento. Tutto il discorso fatto da Eve Ensler nella sua opera teatrale mi ha ricordato un video che ho visto su YouTube qualche mese fa. La YouTuber in questione si chiama Shanti Leaves, parla di argomenti come psicologia, sviluppo personale e sessualità. È di sicuro molto più famosa di me, ma se non la conoscete ancora, andate sul suo canale e guardate qualcuno dei suoi video, perché secondo me danno molti spunti interessanti. In questo video, che si chiama Come mi sono innamorata del mio corpo, racconta un processo simile a quello che si vede nell'opera teatrale Il corpo giusto. Shanti ha avuto qualche anno fa un inizio di disturbo alimentare, che per fortuna è durato solo pochi mesi e non si è trasformato in una cosa più seria. Però comunque lei sa che cosa vuol dire avere problemi col cibo e non riuscire a mangiare. In questo video lo racconta e racconta che la chiave per uscire da questo brutto periodo della sua vita è stato il fatto di rendersi conto che il corpo è quello che la tiene in vita. È una parte essenziale di lei. Non si può vivere senza un corpo. E quindi, più che cercare di spingerlo verso la perfezione estetica, dovremmo amarlo, dovremmo essergli grati perché ci tiene in vita e ci permette di fare tante cose. Questo è anche il pensiero a cui arriva Yves alla fine della sua pièce teatrale. E credo che sia il pensiero fondamentale a cui tutti noi dovremmo arrivare quando si parla di cibo. Perché il cibo non è il nostro nemico. Il cibo serve a tenerci in vita, a darci energia, a renderci sani se mangiamo nel modo giusto. Non è un nemico che ci fa ingrassare. È un amico che ci permette di restare in vita e in forze. Come avete potuto ascoltare, il teatro anche questa volta ci ha parlato di qualcosa di vicino alla nostra vita quotidiana, almeno alla mia. Non so se nella vostra esperienza personale ci siano stati dei problemi con il cibo, spero non gravi, però forse qualche pensiero del genere l'avete fatto anche voi. Per questa puntata è tutto. Se vi è piaciuta e vi è risultata interessante, vi invito a seguirmi di nuovo la prossima settimana. Sempre qui su Radio Big World.